No, vabbè, Vito di Torino, che cos'è Neurogreen? Neurogreen è la possibilità di riflettere sul nostro futuro, sull'ambiente, sui luoghi che si trasformano, come questo spazio, che è uno spazio post-industriale che diventerà una struttura con un giardino sul tetto, pannelli solari, eccetera. E vai, questo qua è la parentesi primitivista della serata, ma continuiamo lo stesso con l'intervista, dai. No, ok, dai, continuiamo dopo. Ah, è finita la benzina.